modalità Manufacturing in 4.0, questa, cioè questa possibilità di inviare milioni, miliardi di dati a questi grandi fratelli, questi grandi software che li analizzano, li correlano sia con eventi che ci sono all'interno della fabbrica, ma sia con eventi che riguardano l'esterno, cioè parliamo della supply chain di input o la supply chain di output fino ad arrivare al mercato. Ma voi avete partecipato al CIO Survey, CIO con la I, CIO, che sarebbero responsabili dell'IT, che è una ricerca che fa una società di consulenza, Net Consulting, sponsorizzata da Capgemini, proprio HPE e anche TIM, sulla digital transformation vista dai responsabili dell'IT delle aziende italiane. Allora, il 43% ha già un digital master plan, però la ricerca mette anche in evidenza che non è che proprio se ne occupino gli amministratori delegati, ma è una cosa che nel 51% dei casi viene lasciata in mano al CIO, cioè al responsabile dell'IT, e nel 23% dei casi al marketing. Invece dovrebbe discendere proprio dall'amministratore delegato. Come commenta lei questo dato di fatto? Ah, questo dato che vediamo, che prima cosa è un dato che fa vedere un bicchiere mezzo vuoto, abbondantemente vuoto, tuttavia è in forte crescita rispetto all'anno precedente, quindi c'è una grande dinamica di variazione, questa è la buona notizia. Tornando alla parte del bicchiere mezzo vuoto, questa cosa coincide un po' con la tematica generale italiana della cultura digitale, che in questo paese ha dei gap rispetto ad altri paesi. Siamo un paese a bassa cultura digitale. Il digitale è qualcosa che è entrato poco nelle vite degli italiani e poco soprattutto nei business. Devo dire, ripeto, che ci sono alcuni che fanno da faro rispetto ad altri che la stanno vedendo come un tema importante. Infatti abbiamo una dinamica di crescita molto forte anno su anno dell'interesse. Ecco, sempre nella ricerca si parla di quello che avevamo già accennato prima, cioè dei big data. E nel CIO Survey emerge che l'analisi dei big data è l'ambito in cui vengono risposte le maggiori aspettative in termini di trasformazione dei modelli di business. Lei come vede questo? Assolutamente sì, per fare un veloce escurso, negli ultimi 20 anni abbiamo tutti attraversato una grande rivoluzione digitale che è nata col World Wide Web, metà anni 90, che è stato il primo grande disintermediatore, ricordiamoci questa parola, disintermediazione, quindi nel metà anni 90 World Wide Web, quello che noi chiamiamo internet, ha disintermediato il nostro accesso alle informazioni. Poi metà anni 2000, altra grande rivoluzione, quella del web 2.0, sì, o dei social network, cioè è stato disintermediato l'accesso da persona a persona, quindi lo scambio di informazioni. Infine siamo adesso a metà di questo decennio e c'è questa rivoluzione che sarà ancora più grande di quelle precedenti, che ricordiamo hanno fatto sparire delle aziende, ma ne hanno create di nuove. E questa dei big data è una miniera spaventosa, perché sono delle tecnologie, è una nuova scienza che disintermedia ciò che è contenuto nelle informazioni, può essere a nostra disposizione. Quindi è un po' come avere una talpa, una macchina che scava in una grande miniera piena di pepite, che sono queste informazioni. Ma siccome sono miliardi di pepite, ce le traduce e ce le pone in fila secondo un significato che per noi è importante per fare il nostro business. Chi sarà più bravo a usare, sì, queste cose batterà gli altri, avrai superpoteri rispetto ai propri concorrenti. Chi non le utilizzerà verrà messo fuori mercato. Ecco, voi siete forti in questo ambito perché avete comprato anche un anno e mezzo fa Aruba Networks, che vi ha portato in dote una tecnologia che analizza anche i dati non strutturati là dove sono, per esempio quando uno chiama il call center, tutte le reazioni anche emotive, le pause. Allora Aruba Networks in realtà è la parte di aggregazione dei dati. Mm-hmm. Questa tecnologia di cui lei parla ci viene dalle acquisizioni recenti di Vertica e di Autonomy, sì, che permettono di correlare sia dati in formato informatico,